1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici miei, che la 144esima settimana decisiva per l'abolizione delle province comincia, anzi è già cominciata, cari italiani, cari ascoltatori nostri. E voi che fate? Ci ascoltate? Ci seguite? Eccoci qui. Allora, che dire? Parleremo del Family Day, del dopo, del che succederà ora, del Renzi ora accetterà l'esplicito invito di chi ha detto da quella piazza: ritiri la legge, altrimenti non ti votiamo più. Questo gli hanno detto tutti quelli che erano in piazza. Quanti erano non lo so, questa polemica è abbastanza ridicola su quanti fossero in piazza e quanto fosse il numero preciso. Comunque, insomma, di fronte a questo c'è l'aspetto politico, ne parleremo più avanti. Intanto dobbiamo andare a leggere i giornali. Avanti! È lunedì 1 febbraio, oggi comincerei dalla Gazzetta. Palo! Così, chi ha fatto palo? Aldegardi, palo! Succede, ma teniamola lì che secondo me verrà buona tra un po' questa cosa. Tienila lì, Peter Biscapè, tienila lì da conto. No, non cominciamo dalla Gazzetta, ma dai titoli. Il Sole 24 Ore apre con gli exploit di investimenti esteri. L'Italia raccoglie 75 miliardi, e questa cifra messa in prima pagina sul Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera apre invece con un dossier della Guardia di Finanza che vedremo tra poco. Le truffe degli statali tra sanità e appalti, un buco da 4 miliardi nei conti dello Stato. E poi ecco qui le unioni civili su Repubblica, unioni civili sulla legge patto PD Movimento 5 Stelle. Per la stampa, per le unioni civili, l'incognita dei voti in Parlamento. Il Messaggero invece ha un colloquio col ministro dell'economia Padoan. Troppa austerity in Europa è il titolo di prima pagina. Per il Fatto Quotidiano invece, il paese dei ladri impuniti, nelle città aumentano furti e rapine e arresti sempre più difficili per legge. Mentre Libero e Il Giornale hanno un titolo simile, abbastanza inquietante. Per Libero, l'ISIS sbarca in Italia, chiudiamo le frontiere, l'allarme del governo francese, probabile che i terroristi possano mischiarsi ai profughi a Lampedusa. Mentre Il Giornale, l'ISIS sbarca a Lampedusa. Il titolo invece dell'Unità è: fuori stagione, l'Italia è senza inverno e il 2015 è l'anno più bollente, meno piovoso dal 1800. Però parto da cosa? Alcune notizie, tante per la verità, mi hanno incuriosito in questa parte in cui voglio leggervi saltando qua e là, a iniziare da una legge che entra in vigore da domani. Fate attenzione, cari cittadini. Repubblica ne scrive in prima pagina: da domani accendere una sigaretta in auto con a bordo un minorenne porta a rischio sanzioni di 500 euro. Lo stop al fumo in auto con i bambini e anche con le donne incinte. Quindi dove ci sono donne incinte o bambini si rischia una multa da 500 euro. Il tabaccaio che vende pacchetti ai minorenni può subire la revoca della licenza. Entra così in vigore il decreto del Ministero della Sanità che accoglie una direttiva dell'Unione Europea sul tabacco. Repubblica fa una pagina: stop al fumo in auto con bimbi o donne incinte. Per chi getta mozziconi per terra, attenzione, giustissima questa legge, anche le altre, ma giustissima questa. Multe fino a 300 euro. Mozzico, certo, io poi finirà all'italiana. Vedete voi, vi immaginate un vigile urbano che ferma uno e dà la multa da 300 euro? Durerà due giorni, finirà sui giornali il primo multato, perché già c'è in vigore come ordinanza in alcuni comuni, ma adesso sarà in vigore ovunque. Ma tanto sì, si daranno qualche multa simbolica, poi si pagherà, forse non si pagherà, e a lei. Comunque, attenzione, la legge ora c'è, voglio proprio vedere. La legge c'è da domani. Ne racconta oggi Repubblica a pagina 15. Ma dicevamo quello che è l'apertura del Corriere della Sera, pagina 3, la truffa dei 7.000 statali. È una notizia che c'è sul Corriere solamente, è Fiorenza Sarzanini che ne parla, è un dossier della Guardia di Finanza, racconta del buco da 4 miliardi ai conti dello Stato per le truffe dei 7.000 statali infedeli. Si parla di appalti truccati, assenteismo, consulenze inutili. Per esempio, a Modena ha denunciato un medico che rimaneva in ospedale appena un paio d'ore. Da almeno 5 anni la regolare presenza veniva garantita solo una volta a settimana. Gli sono già stati sequestrati 40.000 euro, ma i controlli sono tuttora in corso. A Imperia, invece, i dottori del Dipartimento di Medicina Legale certificavano la morte delle persone pur non avendo effettuato alcuna analisi perché erano altrove. E ancora le truffe nelle strutture sanitarie, le truffe negli appalti, i falsi moduli per l'INPS, i doppi guadagni come a Potenza dove un dipendente del comune svolgeva attività privata negli orari in cui avrebbe dovuto essere in servizio, faceva il geometra a compensi rubati per 70.000 euro. Insomma, la Guardia di Finanza ha messo insieme tutto questo e fa un danno per il 2015 in 10 mesi, quindi neanche anno completo, di 4 miliardi di euro allo Stato. A noi, a tutti noi. Mentre invece ritorno su Repubblica in prima pagina per raccontare la storia dell'aeroporto di Parma che Jenner Meletti racconta. La beffa di Parma, l'aeroporto che resta aperto per un volo al giorno, un solo volo di linea, la domenica riposo. I nonni che portano i nipoti a vedere gli aerei si presentano al martedì, al giovedì e al sabato. Alle 12.25 arriva da Trapani il volo Ryanair che parcheggia proprio la sala panoramica, giù passeggeri e bagagli, su bagagli e passeggeri e alle 12.50 l'aereo riparte. Fine dello spettacolo all'aeroporto internazionale Giuseppe Verdi. Al lunedì, al mercoledì, al venerdì si vola alle 22.25 verso Londra, l'ora però non è quella giusta per spettatori piccoli e anziani. Un volo dal 25 ottobre 2015 al 25 marzo 2016, ma con la primavera e l'estate il numero raddoppia, arriva a 14 voli a settimana. Insomma, anche in piena stagione turistica, i voli al massimo sono 2 al giorno. Fa un po' impressione, racconta Repubblica, l'aeroporto che ha tutto, ma dove gli aerei e i passeggeri sono merce rara. E sul sito www.parma-airport.it la direzione avverte che è consigliato a tutti di arrivare in aeroporto con discreto anticipo per poter trovare più facilmente un posto per il proprio veicolo. Andiamo a controllare 3 auto in tutto in un parcheggio con centinaia di posti. Insomma, è la storia di uno dei tanti aeroporti sottoutilizzati, per non dire quasi inutilizzati. L'aeroporto di Parma, la racconta Repubblica, la beffa di Parma, l'aeroporto gioiello che resta aperto per un volo al giorno. Sono cose che capitano in Italia come quella che racconta Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Siamo già in zona mani sul volante, ma non è questo l'articolo che mi fa pensare. Ne arriverà uno peggio, ma sentite Gian Antonio Stella, il prof copia ma non perde il concorso. Succede, è la storia di un plagio, secondo Gian Antonio Stella, abbastanza evidente, fatto da un docente messinese al concorso per l'abilitazione in letteratura italiana, dove si è presentato il professore, si chiama Dario Tomasello, allievo dell'ex rettore, che fa il concorso insieme a un altro professore, Giuseppe Fontanelli. Dario Tomasello passa e Fontanelli no. Solo che Fontanelli poi comincia a insospettirsi di qualcosa e dice: secondo me il professore che è passato, Dario Tomasello, ha copiato dai libri del suo maestro, che era l'ex rettore. E effettivamente, a leggere l'articolo, si ripropone alcuni passi della tesi portata da Tomasello all'esame e alcuni passi del suo maestro, il suo mentore, l'ex rettore, e ci sono passi totalmente uguali, cambiano forse due virgole. Allora ecco che il figlio, anzi non è l'allievo, è il figlio dell'ex rettore, Dario Tomasello, che ha brani identici nei suoi saggi a quelli del suo maestro, al che lo sconfitto fa ricorso, arriva tutto al ministero, ma il ministero dice: visionata la documentazione, la commissione ritiene di non dover modificare il giudizio di abilitazione già reso. Beh, scrive Stella, proprio educativo per insegnare agli studenti a non copiare. Insomma, per andare in cattedra, un docente messinese ha portato al concorso per l'abilitazione in letteratura italiana testi qua e là platealmente copiati di sana pianta. Ma il ministero dice non si modifica nulla. Chi ha dato, ha dato. Chi ha avuto, ha avuto. Così Gian Antonio Stella, testi copiati all'esame da prof ordinario, scoperto, la commissione lo conferma. Ma sempre sul Corriere della Sera, a pagina 2, troviamo l'articolo che mi fa pensare della giornata. Per iniziare bene la settimana, ascoltate qui, cari amici, se avete le mani da qualche parte in macchina, mani sul volante, come sapete, ben stretto, se no date pugni qua e là. La parola chiave è armonizzare. Armonizzazione. Tu, Peter Beschiappè, vorresti armonizzare? Armonizziamo. Ecco, al Senato lo faranno. Racconta Sergio Rizzo a pagina 2 che siccome il Senato cambierà, ci saranno i 100 senatori che dovranno guadagnare quanto i consiglieri regionali, cioè meno rispetto a quanto guadagnano adesso. Al Senato allora cosa faranno? Armonizzano il loro stipendio a quello della Camera dei Deputati, ai colleghi della Camera dei Deputati. Armonizziamolo. L'armonizzazione con la Camera. Sono tre parole. I membri della Camera dei Deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Ecco la nuova formulazione dell'articolo 69 della Costituzione, che prima iniziava così: i membri del Parlamento. Adesso hanno cambiato i membri della Camera dei Deputati. E c'è il documento interno che circola all'interno del Senato che prevede proprio questo. Con riferimento allo status dei parlamentari, occorre procedere alla armonizzazione delle discipline vigenti. Avete capito? Sì, siccome guadagneranno di meno i futuri senatori, guadagneranno come consiglieri regionali, e adesso rimarranno a guadagnare tanto quanto prima, perché si armonizzano lo stipendio. Vorreste anche voi armonizzarlo, lo so, con magari lo stipendio del vostro amministratore delegato, con lo stipendio del vostro funzionario dirigente. Dai, andate al lavoro oggi, dite, facciamo una bella cosa. Armonizziamoci lo stipendio, dai. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. Alessandro Milan, l'informazione che non è mai stata in B, tantomeno due volte. Ecco, neanche tre, oggi il numero chiave è tre, non è proprio due. Sono le Meaz, meno 10 minuti. Ah, beh, va bene, dai. Tra poco arriva Mauro Meazza per parlarci del sole, come sempre, per portarci il sole. Allora, parliamo prima di... ride Peter Beschiappè, ma vedo gente allegra oggi, chissà come mai. Allora, le unioni civili, parliamo di questo e parleremo anche alle 8.40. Perché? Perché la piazza delle unioni civili, del Family Day, che per carità non voglio entrare nel dibattito su quanti fossero o meno, sono veramente argomenti un po' sterili. Rimane il dato politico è questo, e cioè che quella piazza chiede, e lo fa con il suo organizzatore Massimo Gandolfini, fa un appello alla coscienza cattolica del Premier, quindi di Matteo Renzi, dicendo quel disegno di legge va bloccato. E tra l'altro, e prima avevamo Mario Di Nolfi alle 6.30, in maniera neanche troppo vaga, ma in maniera esplicita, lo stesso a Di Nolfi, come molti, hanno detto: guardate che io, per esempio, non lo voterò più Renzi se dovesse passare le unioni civili, dice a Di Nolfi, e con me molti di quella piazza. Allora capite che politicamente la questione si fa interessante. Però la sensazione è che Renzi vada avanti senza intoppi, almeno a giudicare dai giornali nessuna dichiarazione ufficiale sull'Unione Civile dopo il Family Day, ma Matteo Renzi, si racconta nel retroscena di Maria Teresa Meli, va avanti, la legge non è più rinviabile, ripete ai suoi. Massimo rispetto per tutte le piazze, ma non andiamo a rimorchio di nessuno. Siamo in un ritardo inaccettabile, aggiunge il ministro Boschi ai suoi collaboratori. Rispetto agli altri paesi su questa materia siamo in ritardo, ma sono convinta che occorra procedere senza contrapposizioni ideologiche. Anche per Repubblica, Unioni Civili, Renzi, non mi faccio strattonare da nessuna piazza, sono tranquillo, porteremo a casa anche le unioni civili, e se la stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio del partner omosessuale, passa con il voto dei grillini, sono certo che non ci saranno ripercussioni sul governo. Così Renzi, però ci si deve affidare appunto ai retroscena, anche se qualcuno tra i cattolici come Buttiglione lancia lì un'idea: se togliamo la stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio e del partner nelle coppie gay, un'intesa è possibile. Dunque si lancia questo nuovo fronte da parte dei cattolici della sinistra a dire: cerchiamo un compromesso. Viene intervistato da Repubblica anche Massimo Cacciari, che dice, intervistato a pagina 9 da Paolo Berizzi: bisogna andare avanti, sì, la manifestazione va rispettata e compresa, esprime sensibilità diffuse, ma è una piazza contro l'altra, uno a uno, palla al centro, e il punto è che ci vuole realismo storico. Ormai le unioni civili sono una cosa acquisita. Culturalmente parlando, tutti i paesi occidentali stanno andando in questa direzione. Mi rendo conto che è una straordinarietà, ma siamo di fronte a una trasformazione radicale, sociale e culturale, che non può essere ignorata. Così Massimo Cacciari su Repubblica. Anche per il Messaggero la linea di Renzi è questa: solo ritocchi, non è più tempo di ingerenze. Questo è il titolo di pagina 7. Dunque il tempo delle ingerenze, racconta Marco Conti sul Messaggero, è finito. Matteo Renzi ha seguito con attenzione la manifestazione di sabato, tutti gli argomenti usati al Circo Massimo sono da tempo noti a Palazzo Chigi, anche se il Presidente del Consiglio ha sempre preferito tenersi fuori. E dunque i numeri della piazza nulla influiscono, 2 milioni o 300 mila, così racconta il Messaggero. Per il Presidente del Consiglio è il rispetto che si deve alle regioni di chi manifesta, ma si va avanti senza ingerenze. Questa è la linea. L'Unità fa sapere che da domani c'è il test chiave con i primi voti al Senato e in commissione, cioè le richieste di rinvio in commissione, ma si vota in Senato le prime norme e quindi si vedrà già lì domani con il primo test a capire che succederà. Ma lasciamo le unioni civili che troveremo più avanti, parliamo un po' di economia. C'è questa interessante intervista al ministro del lavoro Poletti, intervistato da Roberto Mania. È la prima volta che Poletti parla in maniera concreta di quel che vuol fare il governo sulla questione del sostegno e il contrasto alla povertà. Ed eccolo qui: reddito minimo di 320 euro al mese per 1 milione di poveri con figli minori. Questa è la proposta, un sostegno al reddito pari a circa questa cifra, 320 euro al mese per 1 milione di poveri, accompagnato da un piano per la loro inclusione sociale. È la via italiana al reddito minimo che il ministro del lavoro Poletti illustra in questa intervista a Repubblica. Il governo ha approvato il disegno di legge delega che dà il via libera entro 6 mesi del Parlamento, entro il quale dopo 6 mesi arriveranno i decreti attuativi, e ecco che ne parla per la prima volta. Questo cambiamento che definisce radicale Poletti, perché nel nostro paese non c'è mai stato un istituto unico nazionale a carattere universale per sostenere le persone in condizioni di povertà. Vogliamo dare a tutti la possibilità di vivere dignitosamente. E dunque, eccola qui la cifra, 320 euro. Spetta al governo e al Parlamento fare le riforme, ma poi a bordo ci sono le persone. Le faccio un esempio: chi riceverà l'assegno dovrà impegnarsi contestualmente, come già accade nelle città che stanno sperimentando il sostegno per l'inclusione attiva, a mandare i figli a scuola e ad accettare possibilità di lavoro. Pensiamo così di coinvolgere anche l'associazione di volontariato. Già da subito, dice Poletti, potranno essere utilizzati 600 milioni stanziati dalla legge di stabilità. Dal 2017 si andrà a regime. E insomma, questo è l'annuncio di Poletti, 320 euro per combattere la povertà. Tra l'altro, oggi, per quel che riguarda l'economia, il Messaggero fa non un'intervista, ma un colloquio con il ministro Padoan, Piercarlo Padoan, ministro dell'economia, parla di indebitamento sotto controllo e però rilancia lo stop alla cultura dell'austerity, il rilancio all'Europa, ora l'Europa cambi rotta. Andrea Bassi fa questo colloquio con Padoan, non è, ripeto, una vera e propria intervista, però ci sono dei dettagli del ministro dell'economia. Tra l'altro anche sul Corriere c'è questa novità per quel che riguarda la legge di stabilità prossima, verso lo stop alle tasse salva deficit. Di che si tratta? Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera racconta che il governo ha allo studio un'importante novità nella prossima legge di stabilità: l'intenzione di non fare più ricorso alle clausole di salvaguardia. Una questione tecnica, ma non solo. Le clausole di salvaguardia sono le tasse tappabuchi, diciamo così, come l'aumento dell'IVA o delle accise della benzina, che scattano in automatico se le coperture per alcune spese si rivelano insufficienti. Sarebbe una vera e propria rivoluzione, visto che proprio così è arrivato l'ultimo aumento dell'IVA e che negli ultimi anni le tasse tappabuchi sono diventate una pericolosa abitudine. Ma secondo il Corriere della Sera l'idea è che il governo italiano possa abbandonare questa linea. Migliorano, sempre in questo articolo, i rapporti con l'Europa. L'Italia è abbastanza ottimista sull'idea della flessibilità maggiore da parte dell'Unione Europea. C'è proprio una clausola di flessibilità considerata più a rischio, cioè lo 0,2% di sforamento legato all'emergenza migranti e sicurezza che l'Italia ha chiesto all'Europa, che probabilmente, scrive il Corriere, otterrà, anche perché l'Italia si è detta pronta a fare la sua parte e a dare i 231 milioni su 3 miliardi che l'Unione Europea deve dare. 231 sono di nostra competenza, alla Turchia, e quindi pare che voglia darlo. Ma insomma, sono le 7:43 minuti, io sto leggendo i giornali e da minuti e minuti e minuti le persone mi dicono: ma che leggi i giornali? Che leggi? Ma che ci frega dei giornali? Vogliamo solo un momento, uno chiave, uno, due, tre momenti, non lo so. Uno, questo, quello di... Palo. Chi ha fatto palo? No. Così, chi ha fatto palo? Parte Icardi, palo! No. Si sofonda la palo! Mauro Meazza, palo! Gol di Alex Alfredo. Chi ha fatto palo? Lo cerca Nyang, va in mezzo, Bacca! Chi ha fatto palo? Nyang, rete! Mauro, buongiorno, buongiorno. Non bisogna mai infierire, Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma cosa succede? C'è una festa? Avete vinto la Champions League? No, scusa, è che c'è stato... qualcuno ha fatto... Sono felice per voi. Qualcuno ha fatto palo, non lo so. Qualcuno ha fatto palo, meno male. Chi ha fatto palo? Invece no, caro mio, sono vicende che capitano, sì. Come dire, noi dell'informazione 3.0, anzi vuole dire 0.3, ti invitiamo a leggere il Sole 24 Ore di oggi religiosamente, sì, come sempre. Perché ci scoprirai un sacco di cosucce interessanti. Non c'è scritto chi ha fatto palo. No. No, perché non erano vicende che, come dire, vicende palose più, sì, che pelose. E invece c'è scritto, ad esempio, ci sono le risposte del Dipartimento delle Finanze sulle tue tasse, soprattutto mie, certo. Le imposte locali, io sappi che il fisco si occupa sempre di te, anche se tu non ti occupi di lui, quindi ti invito a leggere le tre pagine di risposte del Dipartimento delle Finanze, dove scoprirai, ad esempio, che non c'è il favor rei per la soglia del contante. Hai capito? No, te lo spiego. No. Sai che la soglia di uso del contante si è alzata a 3.000 euro? Sì. Ecco, però prima era 1.000. Ma allora uno dice: ma se prima per caso avessi sforato i 1.000, visto che adesso è niente da fare, prima resti punibile, adesso invece puoi andare fino a 3.000. Ma molte altre cose potrai scoprire leggendo religiosamente le tre pagine, sì, della, sì, che abbiamo messo lì, piantate come un palo nella foliazione di oggi del Sole 24 Ore, sempre nelle pagine norme e tributi. Sappi che abbiamo anche i tassi per il credito agevolato. Qui Radio Fisco abbiamo i tassi per il credito agevolato. Non è importante che tu capisca, neanche io, devono capire coloro che sanno. Oh, poi ti voglio dire, hai visto che una volta tanto prendiamo invece dei soldi dall'Europa, piano Juncker, te lo ricordi il piano Juncker, 300 miliardi? Beh, i primi sono arrivati. Ce n'è per tutti? Beh, insomma, la per distribuzione? Te, no, per te non c'è niente. Ah, ecco. C'è, e poi abbiamo rivisto questa cosa sugli investimenti esteri in Italia, che è la nostra apertura, sì, già l'hai citata. Non mi sembra che sia stato conteggiato l'investimento estero di quel signore lì, Mr. Touchable, Touchable, non so mai come... B, come la B, è facile. Come ti viene bene quella lettera lì. Allora, però mi sembra che non sia stato conteggiato. Chiederò a Micaela Cappellini se è compreso anche questo investimento. Oh, ricordati, non è che io te lo voglio augurare, no. Ricordati però che da marzo le dimissioni devi presentarle online. Sì. Quindi se per caso tu volessi dimetterti, che le dimissioni si presentano. Tra l'altro, guarda, Mauro, lo sai che ho sbagliato? Avevo detto 4-0 il risultato per l'Inter, peraltro. Invece, ma mi dispiace moltissimo. Ho sbagliato di uno. Anche la porta ho sbagliato. Questa correttezza veramente ti fa onore. Sì. Sappi che con il Sole 24 del lunedì c'è come sempre l'esperto risponde, perché sai che il Sole 24 del lunedì è uno e trino, mi verrebbe da dire. Sì. Cioè, sono tre giornali, ma addirittura, guarda, quattro, voglio essere generoso. Perché prosegue anche online, ad esempio con il nostro ebook, per ottenere il quale puoi usare il codice, te lo diamo a gratis, certo. Guarda, pure ai milanisti oggi diamo. Ma sai che tra l'altro gratis. Mauro, ma io ecco, veramente questo non lo capisco, molte persone che mi scrivevano 10 minuti fa, ma si presenterà a rispondere, ma Meazza è un signore, ma cioè ragazzi, ma va bene il calcio, va bene no, il tifo, va bene, ma qua un po', no Mauro, si scherza anche. No, ma infatti vorremmo anche tre pere a tutti, casa, dai, su. Vorremmo anche invitare tutti a uscire da questa psicosi dello 0.3 che sta diventando, direi, un nuovo prefisso. Comunque complimenti, perché ci avete sorpassato in classifica. Non ci avete sorpassato no, in classifica? No. Quella tra un po'. Che strano, così trionfatori, ma ancora indietro. Vabbè, ma è solo questione di tempo, quindi... Restiamo collegati, sappiano i tifosi anche delle altre squadre che io comunque mi presenterò sempre, salvo che appunto la salute o altri impedimenti o le dimissioni online me lo consentano, o ulteriori offerte di lavoro, che ne so. Vediamo un po'. Allora, caro mio, non so, tre cose ti volevo dire, te ne ho dette molte di più, quindi io me ne tornerei... Mestamente. No, ma no, perché mestamente? Dai, insomma, certo... Sì. Un pochino abbacchiato, ma la fede, sappi, si tempra nelle avversità. E ciò sa il tuo dottore, diceva il poeta. Tutto ciò premesso, traffico devo dire, no? No, puoi dire. Dai, è esagerato. Esatto. Traffico! Alessandro Mila, il giornalista più titolato del mondo! Beh, oggi ci sta, eh. Oggi ci sta. Allora, cari ascoltatori, parliamo un po' di attualità internazionale, che sta succedendo soprattutto in Siria. Non dovete solo vedere al terribile attentato, doppia esplosione per la verità, un'autobomba e due kamikaze. Questo è il racconto di quello che succede in Siria. Bisogna leggerlo in maniera un po' più ampia. Forse non è un caso che questo attentato avviene a Damasco nel momento in cui ci sono dei tentativi, per la verità, diplomatici molto molto fragili per cercare di fermare la guerra civile. Comunque, l'ISIS attacca il cuore della Damasco sciita, questo è il titolo del Corriere della Sera. Due esplosioni, forse tre anzi, ieri mattina a Damasco, almeno 60 morti, in parte soldati, in parte civili. Il numero però potrebbe aumentare, nel frattempo sarà aumentato. La TV di Stato siriana ha mostrato un cratere nell'asfalto, auto e veicoli accartocciati, edifici sventrati. Un attentato che ha colpito il quartiere sciita di Saida Zainab. Tutto questo mentre a Ginevra, dunque in Svizzera, c'è questo tentativo di mettere al tavolo le parti della guerra civile in Siria per cercare una pacificazione o comunque un dialogo. E l'articolo più interessante è di Alberto Simoni a pagina 3 della Stampa. Veti incrociati, bombe, così i colloqui di Ginevra restano a rischio collasso. Mentre l'inviato dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura, incontrava per la prima volta i delegati dell'opposizione siriana nel loro hotel di Ginevra, il suo vice, Ramzi Zedin Ramzi, riceveva gli inviati del governo di al-Assad da tutt'altra parte. Già questa istantanea della distanza fa capire come si separano le due anime della Siria. Di fatto quella vissuta a Ginevra, è stata una strana giornata di avvio di negoziati. Sullo sfondo le bombe di Damasco e dunque una situazione davvero difficile. Come rimane la situazione difficile sul fronte immigrazione? Ora c'è questo allarme che proviene dalla Francia e che viene rilanciato dai giornali italiani, Repubblica, ma anche Libero e Il Giornale lo mettono in prima pagina come titolo principale. L'allarme viene dal ministro della difesa Le Drian, il ministro della difesa francese, che dice: attenzione, c'è un rischio di jihadisti sui barconi che potrebbero sbarcare dalla Siria. Lo dice la Francia, sono molto preoccupato, dalla Libia ovviamente dovrebbero sbarcare, sono molto preoccupato per la Libia, dice il ministro francese, loro sono lì, su quasi 300 chilometri lineari di costa e sono a 350 chilometri da Lampedusa. Così il ministro francese. Ecco dunque che i titoli di Libero e del giornale Libero, l'ISIS sbarca in Italia, e anche il giornale titola così, l'ISIS a Lampedusa. Questo è l'allarme del ministro francese. Ci sono tante notizie di cronaca che mi hanno colpito, c'è solo spazio per intanto il Cardinal Scola, Cardinale di Milano, cosa propone in questa situazione anche un po' confusa? Nel nome del dialogo ci vorrebbe l'istituzione di una festa islamica in tutte le scuole, perché oltre il 20% degli alunni ormai è di origine straniera, ciascuno ha diritto di raccontarsi. Parole del Cardinale di Milano, Angelo Scola. Dunque, teniamo il presepe, ma includiamo le loro ricorrenze nella dimensione pubblica. Interessante questa proposta. Vi segnalo anche che il giudice è una donna di Padova che ha condannato il tabaccaio che ha ucciso un ladro, è ora sotto scorta per le minacce, lo racconta il Giorno. Uccise il ladro, tabaccaio condannato, il tabaccaio è Franco Birolo. Arrivano minacce alla giudice anche sul web e soprattutto sul web. Ora finisce sotto scorta, visto che è stata presa di mira questo giudice che ha condannato per eccesso di legittima difesa questo tabaccaio a quasi 3 anni di carcere. Vabbè, c'è lo spazio per il titolo della Gazzetta, che è questo: Trionfo Milan. Lo facciamo vedere così, quanto è rosso-nera oggi questa Gazzetta. E benissimo, ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. È una pagina intera del Corriere della Sera. Matteo Persivale racconta del principe pittore. Il principe pittore è il principe Charles. Carlo, principe Charles di Galles, che dipinge paesaggi e li vende online e ha guadagnato, udite, 6 milioni di sterline, tutte finite in beneficenza dal principe Charles, che era stato preso in giro per la sua pittura, e invece lui dimostra che vende 6 milioni di sterline coi suoi paesaggi. Una pagina del Corsera. Ma chi se ne frega!